GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Plagio e abusi su una minore, arrestati gli zii, marito e moglie. I fatti risalgono a 10 anni fa, sono avvenuti in Campania. La coppia da poco risiedeva a Pordenone. Sono accusati di violenze psicologiche e fisiche sulla nipote, costretta anche a lasciare gli studi. Stabile la circolazione dell'influenza, l'incidenza è di 9 casi per 1000 assistiti. La fascia più colpita resta quella da 0 a 14 anni, 25 i casi gravi segnalati finora dagli ospedali della regione. Per evitare l'aggravarsi delle condizioni, oltre al vaccino esiste una terapia antivirale a base di oseltamivir come principio attivo. Calano i lavoratori domestici regolari in regione, un trend negativo in corso dal 2021. Si cercano invece sempre più badanti, emerge dal rapporto annuale dell'Osservatorio Domina sul lavoro domestico, che ricorda tuttavia come il settore sia caratterizzato da una importante quota di sommerso, stimabile nel 49%. La Guardia di Finanza dona a Protezione Civile e Vigili del Fuoco 400.000 litri di gasolio sequestrato perché di contrabbando, un regalo che vale 1 milione di euro e consentirà ai due organismi un notevole risparmio nella gestione dei rispettivi parchi auto. Una ricostruzione da 5.000 miliardi di lire conclusa senza scandali e grossi ritardi è il modello Friuli del post-terremoto, rievocato ieri sera in un affollato incontro a Casarsa nel ricordo dell'allora presidente della regione, Adriano Biasutti. In Friuli Venezia Giulia si avvicina un weekend all'insegna del bel tempo, con la possibilità di nubi basse sul Tarvisiano. Già da domani sulla costa invece ritornerà a farsi sentire la bora. L'Accademia di Belle Arti Giovan Battista Tiepolo di Udine festeggia i suoi primi 10 anni con un open day che fra questo pomeriggio e domani farà conoscere ai ragazzi l'offerta formativa, 10 corsi proposti da un istituto a cui ogni anno si iscrivono oltre 200 nuovi studenti. La rockstar del violino è il triestino Pierpaolo Foti, 28 anni, diventato celebre durante la pandemia per il suo concerto in solitaria in pieno lockdown in Piazza Unità. Da allora ha fatto molta strada partecipando in Friuli Venezia Giulia al Jova Beach Party, alla Barcolana e alla Coppa del Mondo di sci. Lo abbiamo incontrato. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Daniele Lettig e Antonio Cagliazza. I carabinieri di Sacile il 27 gennaio hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione della procura di Nola in provincia di Napoli a carico di una donna di 54 anni per reati gravi commessi oltre un decennio fa in Campania. Il giorno successivo la polizia di Pordenone ha arrestato anche il marito, condannato a 6 anni e 6 mesi di reclusione per gli stessi fatti. La ricostruzione della vicenda nel nostro primo servizio. Si erano da poco trasferiti in Friuli, nel pordenonese, marito e moglie originari della Campania, ma qui sono stati arrestati e condotti in carcere per gli abusi nei confronti della nipote 14enne commessi oltre un decennio fa nella provincia di Napoli. Secondo le indagini condotte dall'Arma Partenopea, tra il 2011 e il 2012 la coppia di coniugi avrebbe plagiato psicologicamente la ragazza, allontanandola dagli affetti e spingendola addirittura a non frequentare più la scuola. Lo zio in particolare le avrebbe rivolto attenzioni morbose e in alcune circostanze alle violenze sulla giovane avrebbe partecipato attivamente anche la moglie. I due avrebbero ottenuto il silenzio dell'adolescente attraverso minacce di oscuri mali da parte di spiriti maligni con cui dicevano di essere in contatto e che avrebbero invocato contro di lei e i suoi genitori. Un quadro inquietante che ha portato la giustizia a condannare entrambi per violenza sessuale di gruppo aggravata dalla minore età della vittima. La donna, 54 anni, è stata arrestata dai carabinieri di Sacile lo scorso 27 gennaio in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Nola. Condannata in via definitiva, dovrà scontare una pena di 4 anni e 10 mesi nel carcere di Trieste. Lo stesso ordine di carcerazione era stato eseguito dalla polizia di Pordenone nei confronti del marito, condannato a 6 anni e 6 mesi di reclusione per gli stessi fatti. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Colf e badanti, lavori prevalentemente femminili. A Udine e Gorizia si raggiungono i livelli record del 96%. La presenza straniera sfiora invece il 70%, con una prevalenza quasi assoluta dell'Est Europa. Calano i lavoratori domestici regolari in regione e si cercano sempre più badanti e meno collaboratori familiari. Il picco più alto è stato raggiunto nel 2021, quando i lavoratori domestici regolari in Friuli Venezia Giulia hanno toccato quota 21.878. Da allora il trend è quello di un lento ma costante calo fino ai 19.444 nel 2024, con una forte prevalenza di badanti che rappresentano il 77,1% del totale. Il divario si è addirittura ampliato negli ultimi anni. Nell'ultimo triennio le colf sono diminuite del 25,3% contro il 6,6% delle badanti. E quanto emerge dal rapporto annuale dell'Osservatorio Domina sul lavoro domestico, che ricorda tuttavia come il settore sia caratterizzato da una importante quota di sommerso, stimabile secondo l'ultimo tasso di irregolarità Istat nel 48,8%. Il Friuli Venezia Giulia conferma la forte connotazione femminile, con le donne che a Udine e Gorizia toccano la percentuale record del 96%. La presenza straniera sfiora il 70%, con una prevalenza quasi assoluta dell'Est Europa. Nel 2024 si contano in Friuli Venezia Giulia 19.281 datori di lavoro domestico censiti all'INPS, il 10% in meno rispetto al 2021. L'età media dei datori di lavoro è di 73,2 anni, con un'alta percentuale di grandi invalidi. In media una famiglia spende 10.389 euro all'anno per il lavoro domestico. Nel 2024 le famiglie in Friuli Venezia Giulia hanno speso complessivamente 200 milioni di euro per il lavoro domestico. Il contributo al PIL generato dal settore è pari all'1% del totale regionale. Le proiezioni Istat evidenziano per il Friuli Venezia Giulia un aumento del 49,5% degli anziani dal 2024 al 2050, con un'incidenza che passerà dal 9,2 al 14,4% della popolazione. Lara Zanni, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'influenza continua a colpire soprattutto la fascia d'età da 0 a 14 anni. Gli esperti prevedono ancora una coda in febbraio. Un farmaco si sta rivelando efficace per evitare l'aggravamento delle condizioni. Il suo principio attivo è l'oseltamivir. È un farmaco prescrivibile ma a pagamento e risulta ancora poco diffuso a livello nazionale. Stabile la circolazione dell'influenza in regione in quest'ultima settimana, lo attestano anche i dati della sorveglianza regionale. L'incidenza è di circa 9 casi per 1000 assistiti, inferiore alla media nazionale, intorno ai 12 casi, e in linea con la settimana precedente. La fascia più colpita resta per ora quella da 0 a 14 anni. Gli esperti prevedono ancora una coda a febbraio, anche se è presto per tracciare un bilancio della stagione influenzale. Dal suo osservatorio, il direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale di Udine, Carlo Tascini, rileva già un primo dato clinico rispetto alle precedenti stagioni. Sono aumentati i casi gravi di influenza con sovrapposte infezioni batteriche da pneumococco e stafilococco aureo, che hanno portato a un aumento dei ricoveri dei pazienti in terapia intensiva. 25 i casi gravi in totale segnalati alla Direzione Centrale Salute dagli ospedali della regione da inizio stagione a oggi, circa il doppio dello scorso anno nello stesso periodo, la maggior parte non vaccinati. Per evitare i casi gravi, rimarca Tascini, oltre al vaccino esiste una terapia antivirale, l'oseltamivir, è il suo principio attivo utilizzato anche in ospedale per la prevenzione delle complicanze dell'influenza. Un farmaco prescrivibile dai medici di medicina generale e la cui efficacia dipende dalla sua tempestiva assunzione all'esordio dei sintomi. Si tratta però di un medicinale a pagamento e risulta tra quelli carenti a livello nazionale. Per garantire comunque la sua reperibilità, la regione, su sollecitazione della rete infettivologica regionale, ora lo ha reso disponibile a prezzo di costo attraverso le farmacie ospedaliere e le guardie mediche, dietro prescrizione del medico di medicina generale. Il paziente fragile ai primi sintomi influenzali può quindi contattare il proprio medico di famiglia per farselo subito prescrivere e assumerlo tempestivamente per evitare la progressione di forme gravi. La referente del Servizio Prevenzione Malattie Infettive della Regione, Cristina Zappetti, in un incontro lunedì scorso ha aggiornato i sindacati dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta sul protocollo clinico del farmaco e sulle ultime modalità di distribuzione a livello regionale. Un percorso, sottolineano gli esperti, che si è attivato precocemente, può fare la differenza nella gestione del paziente fragile a rischio gravi complicanze, evitando il ricovero ospedaliero. Lara Boccalò, TGR Friuli Venezia Giulia. I finanzieri del comando di Udine, autorizzati dalla Procura della Repubblica, hanno consegnato alla Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco oltre 400.000 litri di gasolio e vari mezzi pesanti, fra trattori stradali e rimorchi, sequestrati in varie operazioni. Il gasolio era stato introdotto illegalmente nel territorio nazionale. I beni donati hanno un valore che ammonta a 1 milione di euro, cosa che contribuisce a ridurre sensibilmente i costi di gestione del parco mezzi della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. È stato ricordato ieri sera con un convegno al Teatro Pasolini di Casarsa della Delizia Adriano Biasutti, ex presidente della Regione dal 1984 al 1992. L'incontro, che ha analizzato il lavoro del politico friulano nell'era del post-terremoto del 76, ha evidenziato come da quella immane tragedia il territorio riuscì a risollevarsi grazie ad una efficace legge per la ricostruzione. A quasi 50 anni dal sisma che colpì violentemente la nostra regione, è stato ricordato a Casarsa l'ex presidente della regione Adriano Biasutti nel 16° anniversario della sua scomparsa. In un convegno organizzato da Confindustria Alto Adriatico si è voluto ricordare cosa sia stato il modello Friuli nell'emergenza e nella ricostruzione. In una sala gremita da coloro che facevano parte dell'allora giunta regionale, ma anche da vari esponenti dell'attuale consiglio, si è voluto sottolineare come da quell'esperienza drammatica il Friuli Venezia Giulia riuscì a sollevarsi grazie ad una ricostruzione inizialmente costata 5.000 miliardi di vecchie lire e conclusa successivamente senza alcun intoppo. Giovanni Bellarosa, ex segretario generale della regione Friuli Venezia Giulia. L'intuizione principale per il funzionamento è stato coinvolgere appieno i sindaci attraverso quella forma che consentiva ai sindaci di spendere subito. La ricostruzione andò al meglio dal punto di vista legislativo e operativo, perché nessuno ebbe mai a dire nulla, in particolare la Corte Costituzionale. Un modello nato nel 1976 da un accordo tra Aldo Moro, l'allora Presidente del Consiglio, e Antonio Comelli, predecessore di Biasutti alla guida della Regione, ha spiegato Riccardo Riccardi, attuale assessore regionale alla sanità e alla protezione civile. Adriano Biasutti è stato un grande presidente di questa Regione, ha raccolto il testimone da Antonio Comelli, un altro grande presidente, e ha consentito di trasformare una tragedia in un'occasione di grande sviluppo. Un'esperienza che ha dimostrato la capacità operativa della classe dirigente di quel periodo, sia di governo che di opposizione. Dario Barnaba, presidente dell'Associazione Consiglieri della Regione Friuli Venezia Giulia. All'epoca c'erano delle polemiche anche aspre fra le varie forze politiche, ma con un limite, che era quello di non superare le esigenze delle istituzioni e le domande che venivano dalla base popolare. Questo ci ha sempre guidati. Casarsa della Delizia, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Attimi di preoccupazione ieri mattina a Piancavallo, dove intorno alle 11.45 una valanga si è staccata in località Val dei Sas, nei pressi degli impianti di risalita. Il distacco, lungo tra i 50 e i 70 metri, è avvenuto dal costone del Monte Tremol, facendo scattare immediatamente le procedure di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Aviano impegnati nel soccorso piste, insieme a un tecnico del soccorso alpino. Le squadre hanno effettuato un'attenta ricognizione dell'area interessata. Gli accertamenti hanno confermato che nessuna persona rimasta coinvolta, poiché la zona non era frequentata al momento dell'evento. Situazione meteorologica, cielo coperto su tutta la regione, ecco le temperature alle 11. A Trieste, a Gorizia, a Udine e a Pordenone 8 gradi e 5 decimi, a Tolmezzo 5 gradi, Forni di Sopra 3 gradi e mezzo, Tarvisio 2 e mezzo, Piancavallo 1 grado, Sappada 0, Lussari e Monte Zoncolan meno 3, a Grado 8 e 5, a Lignano 7 e 5. Per le previsioni del fine settimana e per un bilancio delle temperature del mese di gennaio sentiamo Francesco Sioni dell'ARPA. Settimana una depressione si sposterà dal Golfo del Leone al Mar Ionio sulla regione, quindi avremo correnti di bora e un generale miglioramento del tempo. Domani infatti, sabato, cielo da poco nuvoloso a sereno su pianura e costa, maggiore nuvolosità nel pomeriggio in montagna con nubi basse nel Tarvisiano, in particolare di notte. Domani inizierà a soffiare bora moderata che poi si rinforzerà nella giornata di domenica sia sulla fascia orientale che sulla costa, al più qualche raffica sostenuta a Trieste, attorno quindi al più ai 60-70 km all'ora. Anche domenica una giornata simile a sabato, quindi ancora cielo in prevalenza poco nuvoloso, con qualche nube in più sulla zona montana e nubi basse nel Tarvisiano. Anche lunedì avremo bel tempo nella prima parte della giornata, poi la transizione con aumento della nuvolosità andando verso martedì e mercoledì, quando ci aspettiamo un peggioramento del tempo con precipitazioni che potrebbero essere intense su tutta la regione e con quota neve che potrebbe essere a fondo valle già inizio giornata di martedì e poi progressivamente alzarsi durante il corso della giornata. Per quanto riguarda le temperature di gennaio, abbiamo avuto complessivamente un mese con temperature medie nella norma, ma appunto molto altalenanti, passando appunto da dei momenti piuttosto freddi a invece momenti centrali di gennaio in cui sono state raggiunte anche temperature in pianura decisamente alte rispetto al periodo. Ultimo appuntamento degli incontri collaterali alla mostra Trieste, invenzione della mia anima, che ha per protagonista Giuseppe Ungaretti e il suo rapporto con il capoluogo regionale, in corso fino al 6 febbraio alla Biblioteca Statale. Oggi alle 17 il curatore Stefano Crise guiderà i visitatori alla scoperta del percorso espositivo che ricostruisce i quattro incontri ufficiali di Giuseppe Ungaretti con Trieste. La mostra mette in evidenza i materiali, in gran parte inediti, riportati alla luce per questo progetto a partire da alcuni fogli sciolti del poeta. Iniziano oggi pomeriggio a partire dalle 17 e continueranno domani gli Open Day dell'Accademia di Belle Arti Giambattista Tiepolo di Udine, un'occasione per conoscere e approfondire tutta l'offerta formativa di un istituto che proprio quest'anno festeggia il suo decennale. Ci illustra quali sono i corsi proposti dall'Accademia al direttore generale Christian Rizzi. Svilupperà oggi e domani, prevede oggi la presentazione dei corsi di laurea magistrali, quindi in design, grafica e pittura ed interior, e domani invece la presentazione delle lauree di primo livello che comprendono tutti i nostri corsi in grafica, in design, product ed interior, e in pittura e arti visive, quindi fotografia, illustrazione e pittura. A questi eventi domani aggiungeremo la presentazione del MITA, che è il corso professionale di tatuaggio artistico, un corso professionante che da quest'anno è stato ampliato con l'iscrizione anche al corso di pittura, quindi di laurea di primo livello in pittura. Quanti sono gli allievi che ogni anno si iscrivono all'Accademia e, per quanto poi voi li tracciate, ne sapete, quali sono i loro percorsi una volta finito di studiare da voi? Ogni anno circa abbiamo 250 nuove immatricolazioni e gli studenti, finito il percorso di studio triennale, decidono se continuare gli studi col biennio oppure inserirsi nel mondo del lavoro. Noi abbiamo un'accademia che è fortemente indirizzata verso l'attività pratica, quindi permette agli studenti alla fine del triennio di collocarsi in quelle che sono agenzie private, studi o agenzie pubbliche di marketing, comunicazione, design, grafica. Noi ad oggi abbiamo come riferimento il 94.3% di studenti che trovano collocazione lavorativa ad un anno dal percorso triennale. Dopo la prima proiezione di domenica scorsa a Fiumicello, nel 10° anniversario della scomparsa del ricercatore friulano in Egitto, oggi il documentario Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, che ricostruisce la verità giudiziaria sul suo sequestro, le torture e l'omicidio, arriva in anteprima a Cinema Zero a Pordenone. Ospite in sala il regista Simone Manetti. La proiezione alle 21. Ben 196 opere d'arte sono quelle donate dall'ingegnere e collezionista Antonio Cattaruzza alla Regione, che ne ha affidato la conservazione e la valorizzazione all'ERPAC. Il catalogo della collezione, pubblicato proprio dall'ERPAC, verrà presentato oggi alle 18 al Magazzino delle Idee di Trieste, alla presenza del donatore. Riscoprire le radici, la storia, l'identità multiculturale di Gorizia partendo dal cuore della città, l'attuale Piazza della Vittoria. E questo è il punto di vista particolare che offre il volume in tre lingue gente di Piazza Grande, la piazza di Gorizia raccontata attraverso le testimonianze delle persone che l'hanno vissuta, di Niccolò D'Avola, che sarà presentato oggi alle 18 all'Auditorium Comunale di Ronchi dei Legionari nell'ambito della rassegna Noi e la Storia. L'abbiamo intervistato. Io sono siciliano, da tantissimi anni trapiantato a Gorizia. Venendo da fuori si guardano le cose con un altro occhio, si diventa curiosi, si studia la storia della città e alla fine Piazza Grande, che sarebbe la Piazza Vittoria, è diventata un luogo del cuore. Leggendo storie di vita, storie di tradizioni, ho visto che quello che c'era di bello era la storia dell'uomo, chi l'ha affollata per 500 anni e anche più. E allora un po' ho allargato il tiro, ho studiato la storia della contea di Gorizia, perché tutto quello che succedeva nella contea praticamente poi si concentrava a Gorizia e tutto quello che succedeva a Gorizia si concentrava in Piazza Grande. Nella sua ricerca c'è qualcosa di particolarmente curioso che ha scoperto? Ma ho scoperto che se va avanti il processo di unione, almeno storico e intellettuale, tra Gorizia e Nova Gorizia, praticamente col tempo si ricostituisce l'antica contea. E quello che mi ha colpito è che la contea e la Gorizia antica era praticamente un luogo magico dove esistevano tre lingue, italiano, friulano e sloveno, e non erano queste lingue non fratturavano le persone ma le unificavano. Voglio dire, in una fiera in Piazza Grande, se un contadino sloveno, un commerciante italiano si parlavano, non avevano bisogno del traduttore perché tre lingue erano conosciute, italiano, friulano e sloveno. Erano un linguaggio comune, veramente si riuniva il centro Europa. Arriva per la prima volta al Teatro Verdi di Trieste un capolavoro raro della più corrosiva critica della società capitalista, della grande coppia drammaturgica formata da Kurt Weill e Bertolt Brecht. Si tratta dell'opera Ascesa e caduta della città di Mahagonni, per la regia di Henning Brockhaus e con la direzione musicale di Beatrice Venezzi, al suo debutto sul titolo. Con una musica ricchissima e piena di evergreen popolari, l'opera narra fra cabaret e teatro musicale dell'ascesa e caduta di una società immaginaria fondata esclusivamente sul culto sfacciato del denaro. A portarla in scena un cast di altissimo livello che vede in primo piano le mezzo soprano Alisa Kolosova e Nozomi Kato, il sipario alle 20. E ora andiamo a conoscere meglio il violino rock del 28enne musicista triestino Pierpaolo Foti. Non è certo il primo a rendere rock il violino, ma Pierpaolo Foti, 28 anni, triestino, lo porta ai suoi spettacoli in giro per il mondo con la consapevolezza di una rockstar. Diventato celebre sotto la pandemia per il suo concerto in solitaria in pieno lockdown in Piazza Unità, il giovane artista ne ha fatta di strada in Friuli Venezia Giulia, dove grazie ai tanti eventi come il Jovai Beach Party, la Barcolana e la Coppa del Mondo di sci a Trevisi ha fatto ballare mezza regione, ma anche per il mondo, Cina, Medio Oriente, Stati Uniti, con tappa a Nashville, casa di Elvis Presley e nella musica folk rock e addirittura Times Square a New York. Foti porta nei suoi spettacoli un repertorio molto vario, ma come scegliere canzoni da interpretare? Quando, secondo me, una musica è bella, indifferentemente dall'epoca, vale e ti suscita delle emozioni vere, autentiche, no? Quindi per quello quando suono passo appunto da Vivaldi a Vissi, come stai citando, piuttosto che anche David Guetta o altri autori classici o pop. Cioè, mi piace veramente tanto questa miscela. Nel background l'importante è non avere preclusioni per alcun genere. Secondo me è giusto aprirsi a nuovi mondi, perché sono passato anch'io dalla musica sperimentale, jazz, blues, prog, metal, rock. Cioè, ho fatto tantissimi gruppi molto diversi, perché andavo a cercare celtica, andavo a cercare cose nuove, cose che magari io non conoscevo. Foti, oltre che performer, è anche compositore. Com'è nata Ballo in Maschera, presentata a Rossetti? È un concetto un po' di creare una specie di nuovo rinascimento, permettimi il termine, perché secondo me bisogna un po' riportare il buon costume, i buoni modi, anche cercare un po' di buona musica, perché io ci credo, anche se vado un po' controcorrente, no? rispetto a quello che discograficamente oggi esce. Quando una cosa la senti, la devi fare. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. I Talk to Her sono una band italiana sorprendente, il cui sound spazia dal post-punk alla musica elettronica, dalla new wave anni 80 all'alternative rock. Nel corso del tour che segue l'uscita del loro ultimo album, saranno in concerto stasera a Trieste, al Teatro Miela, alle 21. Il mondo artistico di Giorgio De Chirico arriva a Monfalcone in occasione della mostra La meccanica del pensiero, dedicata al grande pittore. Questa sera al Teatro Comunale andrà in scena lo spettacolo multimediale Giorgio De Chirico, La lunga notte, un percorso originale e immersivo nella sua poetica. Appuntamento alle 20.45. Un almanacco fuori dagli schemi, con 365 episodi curiosi, assurdi, incredibili, narrati con intelligenza e sarcasmo. È quello redatto dalla divulgatrice Sabina Righellini nel volume Il fatto delle Sabine. La presentazione oggi alle 18 alla libreria Lovat di Trieste. Il Garibaldino del Borgo è il titolo del libro di Vito Marcuzzo, frutto di una ricerca storica sull'impresa dei Mille, con riferimenti a Trieste e al periodo della costruzione del canale di Suez. L'autore lo presenta alle 16.30 all'Unione degli Istriani di Trieste. Il giornalista Pino Casamassima presenterà invece il suo ultimo volume, Le ceneri della Repubblica, un romanzo italiano che rilegge in chiave romanzesca alcune delle vicende più oscure della nostra storia recente, al Caffè Knulp di Trieste. Alle 18. Ora sono le 12:55 minuti e 30 secondi. Grazie a Marco Ferrito e a Paolo Cassano per l'assistenza tecnica, a Laura Sarasini per la collaborazione in redazione e a tutti voi per la cortese attenzione. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e poi alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Vi invitiamo anche a seguire gli aggiornamenti delle notizie sui profili social della nostra redazione e sul sito. Per raggiungerlo basta scrivere nella barra di internet Rai TGR FVG. Da Daniele Lettige e da Antonio Cagliazza, buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.